Radio 24 Reportage. Napoli, alle radici dell'abbandono scolastico, di Anna Rita D'Ambrosio. Ragazzi, permettetevi di dirvi, andate a scuola, andateci, non ne fuggite. Era il 28 settembre, così il capo dello Stato, Mattarella, spronava 2.000 alunni provenienti da scuole di ogni ordine e grado di tutte le regioni italiane, riuniti nel cortile dell'Istituto di Istruzione Superiore San Nino Petriccione, nel quartiere napoletano di Ponticelli. Una scelta non casuale quella di Napoli, la città più giovane d'Italia ma soprattutto quella con il più alto tasso di abbandono scolastico. In Italia gli abbandoni sono il 15% a fronte di un valore medio europeo dell'11,1%. Nel mezzogiorno uno studente su 5 non raggiunge il diploma di scuola superiore. Nella provincia di Napoli gli abbandoni toccano il 29%. Perché i bambini non vanno a scuola? Che si sfastidiano. Perché c'è lo sfastidio. I bambini forse a scuola ci vanno ancora perché hanno un genitore che li accompagna, perché c'è un'atmosfera ancora favorevole al fatto che i bambini vadano a scuola, ma già i preadolescenti, gli adolescenti, i giovani adulti che dovrebbero andare a scuola con i loro piedi trovano ogni giorno un motivo diverso per non andarci. Cesare Moreno, presidente dell'Associazione Maestri di Strada, è chiaro: chi non va a scuola si sfasteria, si annoia. Lo ha raccontato alla giovane collega Rossella Grasso, vincitrice del premio Sara Bianchi di giornalismo, con un documentario dal titolo Napoli dispersa. Rossella ci ha raccontato che quello che più l'ha colpita nella sua inchiesta è stata un'amara constatazione. Mi ha preoccupato molto scoprire che non andare a scuola alla fine costa di meno che andarci. Perché se si fa un calcolo di quanto costa, quanto spende un genitore per mandare un figlio a scuola, tra l'acquisto dei libri, le tasse, la refezione, l'acquisto di tutto il materiale necessario, alla fine si vanno a spendere intorno ai 700 euro. Invece non mandare un figlio a scuola costa solo una multa di 30 euro. Ed è una cosa gravissima, secondo me, perché è un reato, in effetti, tutti gli effetti, ma costa solo 30 euro. Si comincia presto a non mandare i figli a scuola, ci racconta anche Eugenio Tipaldi, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo d'Aosta Scura, nei quartieri spagnoli, autore anche di un libro in cui analizza le riforme scolastiche proprio alla luce della dispersione. Lo incontro alla Paisiello, in piazza Monte Calvario 24, scuola dell'infanzia e primaria dei quartieri spagnoli, con la sede davanti all'uscita della metropolitana Toledo Secondaria. Non mi fanno paura i vicoli, ci sono nata, sono casa mia. Alla Paisiello andavo a votare, la trovo oggi migliorata, muri da poco dipinti, profumo di pulito e un sole caldo che penetra dai finestroni anche in questo dedalo di stradine troppo strette. Il preside in riunione mi chiede di aspettare, nei 20 minuti di attesa mi guardo intorno incuriosita. C'è molta aria di casa, le aule hanno le porte aperte, arrivano a lezione in corso alcune mamme, si affacciano nelle classi, portano cose ai bimbi, chiedono alla maestra di parlare con i figli. Appena il preside si libera, gli chiedo subito perché. Diciamo che siamo molto accoglienti, soprattutto nella scuola primaria, perché diciamo, la particolarità dei genitori dei quartieri spagnoli, che sono molto apprensivi finché diciamo, i bambini hanno fino a 10 anni, e quindi vogliono salire sopra, vogliono accompagnarli, vogliono vedere la maestra, parlano continuamente con le maestre, quindi c'è questo via vai continuo e noi siamo una scuola aperta da questo punto di vista, comprendendo i loro bisogni. Però al momento in cui poi il ragazzo cresce, praticamente la maggior parte, non tutti, però li lasciano un po' in strada, li abbandonano, insomma li considerano già grandi, quando poi non è così, perché sono ancora bambini, che devono crescere, e quindi poi anche nel rapporto con la scuola, dove ci sarebbe bisogno, perché poi emergono i problemi, le problematiche adolescenziali eccetera eccetera, non c'è quella collaborazione da una parte, anche quell'incontro con la scuola che invece di cui ci sarebbe bisogno, insomma. Lo abbiamo detto, lei ha scritto un libro in cui non solo ha analizzato la riforma ma ha raccontato anche degli aneddoti. Posso chiederle, nei tanti aneddoti che nella sua carriera avrà avuto, qual è quello forse che l'ha colpito di più? Ce lo può raccontare? Diciamo, nella lettera che avevo mandato a Renzi avevo parlato di un ragazzino che era difficile da tenere in classe perché si bisticciava continuamente con i ragazzi. Siccome in quel periodo avevamo la scuola media al plesso Paesiello, dove c'è la scuola primaria, poi prima che riaprissimo la scuola Pasquale Scura, dove poi sono state trasferite le classi di scuola media, allora questo ragazzino spesso lo ospitava in presidenza, stava un po' al computer e stava tranquillo, insomma. Poi diciamo, poiché aveva il padre in carcere, aveva bisogno di una figura paterna evidentemente, quindi questa cosa del preside che lo coccolava, lo rassicurava, e diciamo lui mi ha fatto sentire per la prima volta il rap di Rocco Hunt, and you're no boy, e infatti mi piacque questa cosa, non era ancora andata a Sanremo, insomma, quindi conobbi anche questa cosa, perché lui era un fan di questo Rocco Hunt. Dice, preside, senta questa canzone com'è bella eccetera. Stamattina mi ha svegliato il sole, l'odore del caffè, posteri e canzoni. Purtroppo, diciamo, poi questo ragazzo è stato bocciato per due volte consecutive. Abbiamo cercato di recuperarlo, di fargli fare un progetto speciale per fargli prendere la terza media, però lui non si è presentato all'esame e so che purtroppo ha preso una brutta strada. Non vuole essere chiamato eroe il preside Tipaldi. Nei quartieri popolari di Napoli, dove si passa, lo avete sentito, dall'essere bambini all'essere uomini, e l'adolescenza non c'è, può capitare di perdere alcuni ragazzi per strada, nonostante l'impegno. Ma Tipaldi non molla. Alla Pasquale Scura, i ragazzini che non vogliono proseguire negli studi ha riservato speciali lezioni. Come le ho detto, l'ho fatto riaprire la Pasquale Scura, che era stata devastata da sfollati che aveva ospitato il comune, quindi sono riuscito a farla riaprire. Però diciamo, è una scuola che frequentata soprattutto dagli alunni più difficili, più problematici, più demotivati. Quindi diciamo, in questa scuola stiamo facendo dei progetti, approntando dei progetti particolari proprio per recuperare questi ragazzi che sono demotivati. Abbiamo per fortuna alcune associazioni che ci stanno finanziando, c'è il Piemonte della Misericordia, stiamo facendo il progetto Scuola Lavoro per alcuni ragazzi. Non abbiamo i laboratori nella scuola, però vanno a via dei tribunali, dove praticamente imparano dei mestieri, fanno delle esercitazioni per cucina, le ragazze per il cucito, oppure di falegnameria eccetera. Però stiamo cercando di fare anche un laboratorio nella stessa scuola con un falegname volontario. Volontari che per andare avanti sono fondamentali, perché studiare costa, ci conferma Carlo Marotta, 14 anni. Lui a scuola ci va volentieri, ci è sempre andato volentieri. Amici che però hanno mollato, ne ha tanti. Molti di loro hanno fatto anche, non tutto l'anno ma metà anno, e hanno lasciato subito la scuola. Invece molti, anche finendo l'anno, ma perché i professori proprio volevano cacciarli proprio dalla scuola, perché non era un bene tenerli dentro, li promuovevano proprio per lasciarli, ma loro ora e tuttora non fanno niente. La maggior parte però era un misto, chi andava e chi non andava, ma l'esubero era per chi la lasciava. E che cosa ti raccontavano? Perché non volevano venire a scuola? Non serviva a niente? No, molte volte erano anche per mancanza di soldi. I genitori non avevano i soldi per comprare libri e tutto ciò che serviva per la scuola. Invece anche molte volte seguivano i genitori che prendevano una brutta strada e i figli la seguivano. stavo preso male, quindi inizio quella sera. Sì, sì. Quando conobbi Stante e capii che era vera, vera. Carlo ora frequenta il liceo musicale e quella la sua strada. Il brano si intitola L'inizio. Carlito, questo è il nome d'arte, ci crede. Ne ho scritte di più, però quella più che è venuta meglio e che ho pubblicato è stata solo una, perché sto continuando per anche ho impegni scolastici e poi vorrei migliorare ancora di più per pubblicarne poi altre. Ha già cominciato, avanzando, mo questa cultura, mo ci sto appassionando. Destina mia è stata scritta un po' poveta grande, ma inizio questa musica che leve dramma. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.